La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 59 secondi in diretta qui dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia. L'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per proporre temi e proporre voi come ospite della trasmissione, e il numero di telefono per intervenire oggi 800 24 0024, e gli sms 349 238 6666. Di che parliamo oggi? È una specie di prosecuzione in realtà di tutti i convocati, ma visto da un altro punto di vista. Parliamo ovviamente dell'impatto economico finanziario delle indagini in corso da ieri sul sistema del calcio italiano, non tanto, anche se ovviamente è lo sfondo, come capita ogni campionato da un numero innumerevole di anni, a fine di ogni campionato scattano le indagini sul calcio scommesse, questa volta sulle serie inferiori. C'è anche la Salernitana di Lotito, la notizia di questa mattina nei club implicati, quanto soprattutto sull'architrave finanziario del calcio italiano, cioè sui diritti televisivi e su questa indagine che è in corso da ieri, abbiamo appreso, con l'irruzione della Guardia di Finanza alle sedi di Sky, Mediaset, gruppi televisivi e della Lega. La Guardia di Finanza mandata dall'antitrust per un sospetto di un patto occulto sulla attribuzione da parte della Lega ai diritti televisivi fine giugno dell'anno scorso per un triennio. Allora, perché parliamo di questo? Perché l'economia del calcio, per chi volesse sapere in dettaglio come la penso, c'è un post sul Leoni blog mio di stamattina, un articolo pubblicato sul Mattino in cui trovate per filo e per segno come la penso. Mentre per parlarne oggi, quindi telefonate, siate tifosi o non siate tifosi, ma diteci cosa pensate di queste rituali indagini di fine anno. Questa volta, ripeto, ce n'è una che riguarda proprio il polmone finanziario del malandatissimo dal punto di vista economico e patrimoniale calcio italiano, che è la storia dei diritti televisivi. Però per parlarne meglio che da solo e in attesa delle vostre telefonate all'800 24 0024, telefonate in cui sono accetti, ben accolti, qualunque tipo di giudizio sui responsabili della Federcalcio, della Lega Calcio, eccetera eccetera, ma mentre vi aspettiamo per commentare l'impatto di questa indagine in particolare, è con noi un collega, un giornalista che ha scritto un libro che mi sento di segnalarvi se volete approfondire, farvi un'idea e incazzarvi un pochino su tutte le faccende poco chiare dal punto di vista economico e finanziario del calcio italiano. È un libro il cui titolo parla chiaro, perché il titolo del libro è Calcio Criminale. L'editore è Rubettino e l'autore è Pierpaolo Romani. Buon pomeriggio e grazie per Paolo. Buon pomeriggio a te e ai vostri ascoltatori. Allora, io comincio dal dire che ieri, quando ho visto sugli schermi d'agenzia ieri mattina la notizia dell'eruzione della Guardia di Finanza per questa indagine su un patto occulto, l'ipotesi di un patto occulto nell'attribuzione dei diritti televisivi triennali 2015-2018 da parte di Lega Calcio a Sky e Mediaset, da una parte non volevo credere che l'indagine partisse dall'antitrust, dall'altra poi, leggendo, mi è venuto da bestemmiare. Perché, cari ascoltatori, quando a fine giugno di un anno fa la Lega Calcio ha emanato un bando di gara per l'attribuzione triennale dei diritti televisivi, e poi poche settimane dopo la vicenda è finita con l'attribuzione a Sky e a Mediaset, ora chiunque può dire qualunque cosa, ma una cosa non può dire di quella vicenda: che si sia trattato di un patto occulto. Perché, come in tanti, io tra quelli, hanno scritto su molti media italiani, tranne quelli vicini ad alcune proprietà che hanno voce in capitolo nel sistema calcio, in grandi club, quelli si sono astenuti, ma tutti gli altri, hanno descritto per filo e per segno quello che avveniva. Che cosa avveniva? Sotto gli occhi di tutti, quella gara che era stata si è svolta, scritta dal consulente della Lega, e che è il vero, come dire, padrone indominato oramai del più di tutto ciò che riguarda l'economia dei club, del calcio, delle società sportive, di Serie A, non solo di Serie A nel nostro paese, cioè la infront di Marco Bogarelli. Marco Bogarelli a propria volta uscito dal sistema televisivo Berlusconi e così via, era il consulente di Lega Calcio, scrisse materialmente le norme di quella gara. La gara ovviamente vide i gruppi televisivi, non solo Sky e Medias ma anche altri tipo di gruppo, fare le loro proposte. Quando si aprirono le buste, i risultati, che non assecondavano l'equilibrio incrociato di Sky e Mediaset, misero la Lega e i grandi club della Lega, cominciare dal Milan e così via, in enorme imbarazzo, e sotto gli occhi di tutti avvenne una redistribuzione dei pacchetti, non secondo i criteri della gara, cioè i quattro lotti attribuiti a chi aveva offerto di più, bensì Sky e Mediaset si misero d'accordo con la Lega Calcio, d'accordo, ripeto, sotto gli occhi di tutti. E la cosa ancora più paradossale è che a dare l'ok alla redistribuzione dei lotti, che consentì a Sky e Mediaset di attribuirsi, separandosi, i diritti dell'intero pacchetto, e la Lega incassò 130 milioni di euro in meno rispetto a quello che avrebbe incassato se si fosse attenuta alle regole della gara che essa stessa aveva indetto, e a questo diedero la benedizione esattamente le autorità di regolazione del mercato, cioè la GCOM, l'autorità che regola la televisione, e l'antitrust. L'antitrust che adesso manda la finanza sull'ipotesi di un patto occulto, quando questo è avvenuto sotto gli occhi di tutti, descritto per filo e per segno come una spartizione tra gruppi televisivi che dovevano trovare il modo ciascuno di non uscire dalle proprie piattaforme di riferimento, il satellitare e il digitale terrestre, rispettivamente per Sky e per Mediaset, con il pieno avallo dei club dominanti della Lega, anche se poi a votare a favore a questa redistribuzione furono 22 club su 23, e i club minori, che naturalmente ci rimettevano con i 130 milioni in meno, che facevano buon viso a cattivo gioco. Ma questo, ripeto, è avvenuto con l'ok della GCOM e dell'antitrust, cioè autorità conniventi. Allora, come poi oggi l'antitrust scopra che forse c'è stato un patto occulto, quale occulto, e in questo finga che a rivelarlo sia una frase di Lotito, altro punto di riferimento al sistema del calcio italiano, che si è vantato di aver fatto parlare Berlusconi e Mardo, cioè Mediaset e Sky, questo è il ridicolo nel ridicolo, visto che l'antitrust stesso e la GCOM misero il bollo su quella plateale, brutale intesa anticoncorrenziale, frutto solo del fatto che c'è chi conta, come diceva Alberto Sordi nel Marchese del Grillo: io so io e voi siete quello che segue. In tutto questo la cosa ridicola era che era l'advisor che ha scritto le regole della gara, cioè appunto la info di Bogarelli, fu lei per prima a fare da consulente tra gruppi televisivi e Lega Calcio per mettersi sotto i piedi l'effetto di quella gara. Ripeto, tutto avvenuto sotto gli occhi di tutti, criticato da una parte della stampa italiana, rimase la cosa senza esito, e anzi ci sorridevano in faccia dicendo: poveri ragazzini che vi affidate all'antitrust, alla trasparenza, meglio così, è meglio per il sistema televisivo, è meglio per il sistema del calcio. I vertici federali dissero: ma dai, portiamo un miliardo a casa per tre anni, e tutto a distanza di un anno riesplode. Allora, questa mia sintesi, che mi fa dire che questo è l'ennesimo episodio clamoroso della conferma che l'economia del calcio è appunto un'economia basata sull'illegalità, però con i regolatori conniventi, a questo punto, dopo che ho fatto la mia sintesi, però approfondiamo e capiamo come la pensa Pierpaolo Romani, autore del libro Calcio Criminale. Allora, tu come la vedi questa indagine? Ma intanto diciamo che ieri c'è stata anche un'altra indagine che è partita molto presto, quindi partita da una direzione distrettuale antimafia che ha coinvolto pesantemente il mondo del calcio e il mondo del calcio, diciamo, delle cosiddette serie minori, che però, ecco, a proposito di illegalità, è un mondo su cui andrebbero accesi non uno ma 100 riflettori, perché ecco, tu parli di cifre sicuramente importanti, ma che gravitano in un pezzo del calcio italiano, certo, che è il calcio di livello di Serie A e in parte anche di serie B. Ma bisogna pensare che quindi qui ci sono certi giochi legati alla ridistribuzione di queste ricchezze, con una particolarità del calcio italiano rispetto ad altri tipi di calcio: senza diritti televisivi doveva prendere i soldi il calcio italiano. Altri campionati di calcio vivono anche su lo vivono in maniera imprenditoriale diversa. No, ma totalmente diverso. Questo è il fattore fondamentale di un settore consegnato da chi fece la riforma del sistema calcio negli anni 90, dalla Consob che autorizzò negli anni 90 le quotazioni squadre di calcio, a differenza che in tutta Europa, senza essere proprietari di asset immobiliari, cioè gli stadi, e da praticamente inesistente attività di franchising, cioè di proventi diversi da quelli dei puri incassi e dei diritti televisivi. Queste sono state tutte decisioni delle autorità italiane di regolazione del mercato finanziario nel caso della Consob, adesso c'è quella della televisione e anche quella dell'antitrust, con la politica totalmente connivente, per cui abbiamo un sistema del calcio, i diritti televisivi, cioè questo miliardo annuo per 3 anni, per avere un'idea chi ascolta e non è un tifoso che magari sa tutto e molto più di me, i 3 anni di diritti televisivi della Premier League britannica, della Premier League, non della Serie A, della Serie B, della sola Premier League britannica, valgono esattamente il doppio, per intenderci, mentre quel miliardo annuo che veniva vantato dal sistema federale del calcio italiano, avendo truffato sulle regole che essi stessi avevano scritto, copre a malapena l'80% del costo fisso del personale dichiarato dei club di Serie A. Cioè è un sistema comunque che, non avendo risorse per andare avanti in trasparenza, è un sistema che secondo me chiama manager senza capitali, come si vede. Per capirci, il Manchester United nel bilancio di un anno fa chiudeva con profitti di oltre 200 milioni di euro, che sono pari a i suoi profitti del Manchester United ha più dei ricavi dell'85% delle squadre di Serie A italiano. Perché, per capirci, il Milan nel bilancio 2014, che ha chiuso qualche settimana fa, ha ricavi per 224 milioni, mentre il Manchester United ha utili per oltre 200 milioni, e naturalmente il Milan ha perdite di 91 milioni e un patrimonio negativo di 94 milioni. La Juventus, che diventa campione quest'anno per l'ennesima volta, ricavi 300 milioni di euro. Certo, ha un patrimonio netto positivo, 42 milioni rispetto a quello del Milan che è negativo, margine operativo positivo 69 milioni, perdite di 7 milioni, debiti per 211 milioni, e infatti in borsa vale quanto il totale dei suoi ricavi. Capite che c'è una differenza di livello, di equilibrio di conto economico, di capacità manageriale. Sto parlando della Juventus rispetto al Manchester United. Manchester United da solo fa di utili poco meno di tutto il fatturato in un anno della Juventus. Allora, questo è un sistema che, come non si regge, chiama manager senza capitali, illeciti e regole truccate. Scusami se ti ho interrotto, vai avanti Pierpaolo. Sì, figurati. Dicevo, ecco, quindi questo è un tema importante. Poi ci sono, ecco, i campionati, penso alla Lega Pro e i campionati poi della Lega Nazionale Dilettanti, dove qui invece i capitali mancano molto spesso, d'accordo? E quindi il fatto che manchino spalanca praterie a quelli che i capitali li hanno, sono magari anche capitali illeciti, e sono disponibili ad entrare in un mondo come quello del calcio, che è un mondo che si presta anche al riciclaggio di denaro sporco, per esempio. È un mondo che io da tempo seguo, il rapporto calcio e mafie, che i mafiosi cercano, perché non solo possono riciclare ricchezze illecite, ma grazie alla squadra di calcio acquisiscono consenso sociale. Ah, non c'è e tutto. Questo significa, però, si traduce nel cosiddetto capitale sociale, come direbbero i sociologi, cioè nella capacità di accendere relazioni, penso con dei sindaci, con degli imprenditori, con dei presidenti di camere di commercio, quindi di a sua volta inserirsi grazie a queste relazioni in contesti che, grazie ai quali poi si possono fare affari di altro tipo. Qual è, secondo me, il trade d'union tra l'uso del denaro non molto trasparente? Io lo condivido, che l'assenza di trasparenza, mi permetto di dire, anche la diffusione dell'omertà è forte nel calcio italiano, è che c'è una difficoltà ad accettare le regole che si sono stabilite, e quindi si opera attraverso l'esercizio di altre regole, e chi magari a volte si batte per applicare le regole esistenti, diventandone anche suo malgrado un simbolo, faccio un nome, Simone Farina, quel calciatore del Gubbio che con un guadagno neanche di 100.000 euro all'anno si vide, gli proposero 200.000 euro per truccare una partita, e lui, come devono fare gli istituti tesserati denunciò. Ecco, l'anno dopo non trovò una squadra professionistica in Italia. Perché aveva il marchio dell'infamia, perché la si era sottratta a una prassi troppo diffusa per consentire che un giocatore onesto, uno sportivo onesto, non si facesse tentare dal doppio dell'intera sua retribuzione annuale. Questo è mi fa piacere che l'hai citato quel caso, perché a me fece girare molto le scatole, però mi fece aprire gli occhi, perché è evidente che se nessuno lo tesserava voleva dire adesso tu cambi mestiere e sparisci da questo mondo, perché hai osato parlare. Allora, io non voglio mettere le dita nelle orecchie, per così dire, degli ascoltatori tifosi, però è abbastanza intollerabile il velo di ipocrisia che, grazie a fortissimi interessi, Mediaset, Berlusconi, Sistema Galliani, Bogarelli di Infront viene di là, sì, adesso la proprietà è passata ai cinesi, ma lui resta per anni alla testa della società, eccetera, eccetera, e gli altri grandi club conniventi sono perfettamente consapevoli che questo è il sistema, ne sono gli attori, e quindi a me scappa da ridere quando sento dire poi dai vertici federali noi siamo il rinnovamento. Torniamo tra un minuto dopo l'informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:47, primi 40 secondi. Stiamo parlando degli scandali di questo fine campionato italiano. Da una parte la retata con 70 indagati, 50 arrestati per le combine con la mafia serba pure di mezzo, nelle ex serie C e D, per capirci. C'è anche la Salernitana di Lotito di mezzo, l'ho sottolineato tre volte per chi avesse letto l'intervista oggi sul Corriere della Sera di Lotito. E dall'altra parte questa incredibile indagine sul pilastro finanziario del calcio italiano professionistico, cioè sui diritti televisivi, cioè su quello che sotto gli occhi di tutti avvenne un anno fa, un accordo che stracciava le regole dell'asta dei diritti televisivi scritti Infront come consulente di Marco Bogarelli della Lega Calcio, strappata all'esito della gara, grande accordo tra Sky e Mediaset e la Lega Calcio, sotto gli occhi di tutti una intesa collusiva anticoncorrenziale. L'antitrust si sveglia un anno dopo, dopo aver messo il timbro insieme alla Gcom all'epoca, perfettamente consapevoli di quali erano brutalmente gli interessi in gioco, altro che la concorrenza, le regole, una gara. E adesso c'è un'indagine un anno dopo, e a me scappa da ridere, anzi da piangere, per come non sta in piedi visibilmente il sistema economico finanziario carente di trasparenza del calcio italiano, non per colpa dei tifosi, non per colpa dei giocatori, non per colpa di questa o quella proprietà. È un sistema le cui regole da decenni hanno visto politica e istituzioni con gli occhi e le orecchie chiuse, perché il consenso con cui si lascia aperto alla malavita nel territorio delle leghe inferiori il terreno per riciclare sopra si traduce in bilanci che non stanno in piedi, in perdite ripianate, in regole per il pagamento dei contributi che hanno un'eccezione assoluta nel codice civile italiano, legati a qualunque altra impresa, eccetera, eccetera, eccetera. Sentiamo qualche vostra telefonata che poi facciamo commentare a Pierpaolo Romani, che è con noi, autore di questo libro che vi consiglio di leggere, così vi fate un po' di sangue amaro. Si chiama Calcio Criminale, Rubettino Editore. Cominciamo con Ignazio che chiama da Napoli. Prego Ignazio. Salve, Gianni, grande trasmissione. Volevo solamente aprire un inciso e poi per dare spazio agli altri, essere molto breve. Cioè, riguardo a Intro. Sì. Di Marco Bogarelli, in realtà sì. Io penso che questo si sappia, che dietro in fronte ci sono i cinesi. Che hanno, i cinesi sono arrivati da pochi mesi, hanno preso la proprietà, il gruppo Wanda. Ma hanno già acquisito, leggevo su alcuni articoli, la proprietà della pubblicità per la Serie B. Beh, quella se la sta portando a casa Bogarelli, che in questi anni ha fatto di Infront il vero padrone nominato dell'economia del calcio italiano. Benissimo, sì. Ma dietro tutto questo, il pericolo che posso ipotizzare che l'intervento dei cinesi in maniera così massiccia, perché loro portano liquidità fresca, è che magari sentendo i cinesi la politica che dovrebbe intervenire in maniera rapida, veloce, per tentare di sanare questa situazione o perlomeno di abbozzare un intervento risolutivo su questa drammatica situazione per il calcio e fa male a tutti noi tifosi, si fermi di fronte a Infront, che rappresenta comunque un'ala economica cinese molto importante. Per carità, però vede, il mio problema è che al di là della bandierina cinese, che aggiunge un aspetto, perché ovviamente si muovono centinaia di milioni intorno a questo mondo, il problema è che Infront è monopolista assoluto oramai, cioè lì c'è un problema generale, non è che se c'era Bogarelli da solo rispetto alla proprietà cinese era meno significativamente grave, questa è la mia opinione, però capisco la sua osservazione aggiuntiva. Il gruppo Wanda cinese aggiunge anche un problema in più. Luciano da Firenze, come la pensa? Allora, io la penso che mi meraviglio che ancora si parli di legalità nel calcio. Il calcio è una cosa illegale, è stata santificata da quando è venuto Carciopoli, sia dal mondo politico sia dal mondo della informazione. Avete accettato supino dei verdetti fatti dall'amico dell'amico nominato presidente, ma nemmeno al tempo dell'ok Corda succedeva queste cose. Diciamo non tutti hanno accettato, poi io faccio parte della minoranza dei rompicoglioni, però non tutti. Però devo ammettere che se uno guarda il sistema dell'informazione nella sua grandezza, nei giornaloni e così via, Luciano da Firenze secondo me non ha tutti i torti, perché il problema è che quando ci sono proprietà a cavallo di grandi gruppi industriali, grandi gruppi editoriali che sono anche nel calcio, raccolgono la pubblicità eccetera eccetera, succede anche nell'informazione quello che dice Luciano. Sentiamo Tancredi da Udine. Prego Tancredi. Carissimo Giannino, allora intanto premetto la lascio disperare con gli organi di controllo, perché dall'antitrust arriva, sarà Consob, che Dio ce ne scampi. Detto questo, sono d'accordo con lei sul discorso del Manchester United per il netto rispetto al fatturato della Juve, però ricordiamoci che comunque la Juve rispetto a tante altre squadre ha iniziato un percorso che, diciamo, il fine ultimo sarà quello di arrivare dove sta il Manchester. Ah, non c'è dubbio, ma infatti ho citato la Juventus e il Milan come l'esempio. La Juventus è quella che c'ha il bilancio meglio messo in Italia, non c'è alcun dubbio, l'ho citata per quello. Il Milan ha da anni e anni di perdita, sta messo malino, non è certo quello messo peggio. Ci sono tanti altri paradossi che potrei fare. Il bilancio tutto sommato rispetto ai mezzi più in equilibrio, quello della Lazio di Lotito, perché ha chiuso in utile nel 2014 per 7 milioni, ha ricavi per 84 milioni, ma un margine operativo, quindi un margine di gestione positivo per 24 milioni, e il bilancio migliore. Il paradosso è che la Roma, che chiude in perdita per 38 milioni, piena di debiti 137 milioni e solo 128 milioni di ricavi, in borsa vale 3 volte la Lazio. Ma queste sono le follie economiche del calcio italiano, quindi non volevo criticare. Quello della Juventus è quello col più alto margine di utile, ma l'ho interrotta solo per precisarlo, prego. Sì, no, non volevo dire un'altra cosa velocemente, un'altra osservazione e poi una soluzione dal mio punto di vista. Dica. Un'altra osservazione è Tavecchio. Io guardi, ho sempre fatto, lo sto facendo, il blocco d'assicurazione, velocemente, dico, se un mio collaboratore sbaglia, io civilmente rispondo con la polizza di responsabilità civile, poi dopo se ci sarà una rivalsa la farò nei confronti del mio collaboratore, mica di quel collaboratore ci rispondo, perché la mia è una colpa in vigilando. Impossibile che Tavecchio non conosca il marcio, 20 società, più di 50 tesserati. Tavecchio deve dare dimissioni oggi, in questo momento, in questo secondo. Questa è un'altra premessa. Un'altra cosa, una soluzione. Sì. La soluzione, secondo me, è, purtroppo per i campanilismi italiani, lo dico da giocatore che è un giocatore tanti anni, appassionato di calcio, la soluzione, a mio modo di vedere, è un campionato modello NBA europeo. Magari. Dove ci siano solamente i grandi club. Magari. E i piccoli, però, club italiani, però poi, dando spazio ai giovani, però, e diventa un campionato per giovani, tipo universitario. Ho capito, però poi le serie minori devono esistere, devono avere un equilibrio economico. Ma pensate solo alla follia di consentire le scommesse sulle partite delle serie minori. Perché poi alla fine tutta l'indagine, il marcio delle serie minori, dell'inchiesta della retata di ieri, è questo. Ma è una follia totale consentire una cosa simile, secondo me. Magari boh, la maggior parte di voi scommette ed è contenta. Pierpaolo Romani, che ti aspetti? Sarà una spallata o come tutti gli anni tra un mese poi continuiamo ad andare avanti e ce lo siamo dimenticati? Ma sai, l'Italia è un paese che ha un po' il vizio della memoria, più che la virtù della memoria, però io, nonostante, ecco, tutta questa difficoltà e tutte queste brutte cose di cui stiamo parlando, io vorrei dire, ecco, che ci sono anche pezzi di calcio che cercano di reagire a questa situazione. Penso a tutta l'attività che sta proponendo Demeno Tommasi con l'Associazione Italiana Calciatori, per esempio, rispetto alla modifica di alcune cose. Quindi guardiamo al ciò che non va. Magari avessero messo Albertini presidente al posto di tanto per dirne. Ecco, voglio dire, oltre che cambiare certe regole, bisogna cambiare anche le persone che vanno ad applicare quelle regole. Certamente. ci sono attualmente dei dirigenti che sono nel calcio da anni ed è impensabile, come diceva l'ascoltatore, e sono totalmente che non conoscano, con che non conoscano. Allora, per Paolo, il mio tempo è finito. L'autore del libro, per Paolo Romani, Calcio Criminale, Rubettino. Vedrete che se lo leggete capite ancora meglio quello che leggete sui giornali in questi giorni. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.